coltivare un fiore in mezzo a tanta sabbia nel deserto. È tutto quanto incerto, incerto e provvisorio, non è consolatorio, ma è così. Non resta che il rifugio in fondo al cuore, laddove amore so che ci sei tu. Insieme a quella tenerezza, a quel poco di purezza che non muore con la gioventù. Acrobata inesperto, ho camminato piano, in bilico su ogni sentimento. Ma basta un po' di vento e ruota lo scenario, precario è tutto quello che si ha. Non resta che il rifugio in fondo al cuore, là dove amore non ci sei che tu. Sola in quell'immenso, basti a dare luce e senso a un mondo che altrimenti non ne ha più. In quell'immenso basti a dare luce e senso a un mondo che altrimenti non ne ha più. Perché il rifugio è dove sei anche tu.